Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Alla fine diventa calore. Che voi produciate energia elettrica o la consumiate, che fondiate l'acciaio o cuociate il pane, che riscaldiate casa o la condizionate, alla fine da qualche parte vi toccherà buttare via un po' di calore a bassa temperatura. È una delle leggi fisiche più fondamentali e anche più citate che lo assicura, il secondo principio della termodinamica. Risultato? C'è un'immensa quantità di calore a bassa temperatura a disposizione, solo che non sappiamo bene che cosa farcene. Produrre energia elettrica da una piscina di lava, per esempio, è facile, ma produrla da un lago di acqua tiepida è difficilissimo, anche se in ultima analisi contengono la stessa quantità di energia termica. È sempre lui, il secondo principio della termodinamica, a dircelo. Però da alcuni anni si sta facendo largo una possibile soluzione che chiama in causa le nanotecnologie, di cui uno dei massimi esperti è Dario Narducci, nanotecnologo, professore dell'Università di Milano Bicocca, che è in linea con noi. Buonasera Narducci. Buonasera, buonasera. Ci diamo del tu, ci conosciamo da tempo. Dario Narducci è anche Chief Technology Officer del consorzio Delta T, che è una joint venture tra Milano Bicocca ed ERG. Dicevamo, un oceano di energia da cui estrarre anche una piccola percentuale farebbe la differenza, e voi lavorate su questo. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un fenomeno fisico ben noto da più di un secolo, che tra altre cose fu scoperto in Italia da Volta, una delle tante scoperte di Volta, anche se oggi va sotto il nome primariamente di uno scienziato tedesco che è Seebeck. E che sostanzialmente cosa consiste nel fatto che in quasi in qualunque materiale, se io genero una differenza di temperatura ai due estremi di una barretta, quello che succede è anche di generare una differenza di potenziale elettrico, e quindi in ultima istanza la formazione di una energia elettrica, la generazione di un'energia elettrica. E questo processo può avere una efficienza più alta o meno alta, nella maggior parte dei materiali è estremamente bassa, tant'è vero che di per sé il fenomeno ha avuto fino ad oggi, fino a pochi anni fa, primariamente un'applicazione di tipo misurazione, cioè sostanzialmente l'utilizzo delle termocoppie. Ecco, infatti, perché stiamo parlando dell'effetto tipico della termocoppia che abbiamo a casa montata sul fornello a gas, e che è quella che nel momento in cui il gas si spegne, scende la temperatura, chiude il gas sostanzialmente. No? Questa roba esiste da tanto tempo, ma ha un'efficienza ridicola sostanzialmente. Invece qui state lavorando proprio su una nuova tecnologia che consente di aumentare molto l'efficienza di questa trasformazione di energia termica in calore, che avviene senza parti in movimento, senza, come dire, proprio un pezzo di metallo che butta fuori un po' di energia elettrica. Esattamente, diciamo che nelle termocoppie, che come suggerisce il nome sono fatte da coppie di materiali uniti fra di loro, non ha nessuna importanza la corrente che viene generata, si usa soltanto il voltaggio. Il segnale di tensione, diciamo. I rendimenti di conversione fino a non molti anni fa, parliamo di una ventina di anni fa, erano tipicamente dell'ordine di qualche percento, il che ovviamente ha impedito, o quantomeno ha fortemente ristretto, le possibilità di impiego di questa metodologia di conversione di calore in energia elettrica, che ha sicuramente questo grosso vantaggio di non avere parti in movimento. Ecco, più o meno come viene costruito, assemblato questo oggetto, come si presenta? Ma non è in realtà molto diverso dalla termocoppia di cui parlavamo prima, quella dei fornelli per intenderci, soltanto che invece di essere una singola coppia di materiali è fatto da una sequenza, da una serpentina di materiali accoppiati, che sono tipicamente per le applicazioni energetiche non dei metalli, perché non sarebbero efficienti da questo punto di vista, ma dei semiconduttori. E i materiali che vengono normalmente utilizzati nei generatori Seebeck che si possono comprare, che sono già disponibili ovviamente, tipicamente impiegano invece dei materiali molto più sofisticati, molto più strani, che sono tipicamente dei telluri, telluri di bismuto, telluri di piombo, che sono dei materiali più efficaci, ma anche notevolmente più costosi. Più costosi. Il telluro in particolare è un elemento piuttosto raro, no? Più raro del platino. Ecco, mi sembra. E questo è uno dei limiti, no, di questa tecnologia allo stato attuale. Ecco, alla fine questo materiale, a me piace chiamare termovoltaico perché mi fa pensare al fotovoltaico, è composto da delle lamine, si presenta come un foglio che può essere avvolto attorno a degli oggetti caldi, appunto. È un po' più rigido di un foglio, sì. Diciamo, che è un oggetto che deve avere una forma ben definita, perché poi da un punto di vista tecnico molto della effettiva efficacia di un generatore termoelettrico sta nella capacità di accoppiare, di unire, di far vedere una serie di due superfici bene senza disperdere calore. Va bene, ci fermiamo qui, ma riprendiamo domani per parlare delle molte possibili applicazioni di questa tecnologia. Per intanto grazie Dario Narducci. Grazie.